L'abbonata della settimana. Siamo arrivati ormai a una settimana della campagna abbonamenti di Radio Città Fujiko e devo dire che state già mostrando la vostra generosità. Siamo arrivati più o meno all'11% dell'obiettivo minimo che ci eravamo fissati, ma ci siamo anche detti in redazione. Perché dire solo noi le ragioni per abbonarsi? Sentiamo anche chi lo ha fatto e il perché lo ha fatto. Ed è per questo che è nata questa rubrica, l'abbonata della settimana, e oggi l'abbonata della settimana è Cristina, che ha il telefono con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Prima di tutto ti chiedo, tra le tante modalità che ci sono, crowdfunding, read e cose varie, quali hai scelto? Ho pagato con PayPal. Ah, ok, quindi col crowdfunding, che sì, è semplice, sì, e veloce, lo fai da casa. Assolutamente, alla fine è meno complicato di tutti, insomma, ci vuole veramente un attimo. Per chi usa normalmente quella roba lì, ci vuole veramente un secondo. Ecco, allora a questo punto la domanda delle domande: perché hai scelto di sostenerci? Che ci vorrebbe? Quanti giorni ho? Allora, vuoi sapere veramente il motivo? Sì, sì. Allora, il vero motivo è che io ho un crush per il direttore e quindi farei qualsiasi cosa, e quindi mi sono abbonata. No, adesso stavo scherzando, volevo farti diventare rosso, che per radio non si vede. No, il motivo vero è che credo che sia troppo importante che una radio locale indipendente di sinistra come sono io sia sostenuta dalla gente, se vuole rimanere indipendente, altrimenti il rischio è che sia un po' meno indipendente. Quindi io sono reduce, diciamo, dalla scorsa settimana in cui Radio Popolare faceva la stessa cosa che state facendo voi. Infatti io ho gioito quando Radio Popolare si è gemellata con Radio Città Fujiko. Io ascolto praticamente tre radio: Radio Popolare, Radio Città Fujiko e Radio 3. Però secondo me l'informazione indipendente locale deve assolutamente sopravvivere. Io sono stata in lutto quando Radio Città del Capo ha fatto la fine che ha fatto, quindi non si può permettere che Bologna rimanga senza una radio con quelle caratteristiche, secondo me. Adesso svelo, visto che mi hai provocato, svelo un retroscena: Cristina è anche una grande follower, insomma, dei contenuti della radio sui social, al limite della persecuzione. Sì, no, ma il motivo è quello che ti ho detto, cioè. Ecco, ma questo ti volevo chiedere, giusto per capire, sì, anche un po' i comportamenti dei nostri ascoltatori, uh-huh, delle nostre ascoltatrici. Tu ci segui in FM, in streaming, sui social, sul sito? Qual è la modalità che ti viene più comoda? Allora, un po' tutto. Allora, sui social mi è molto utile per sapere anche le cose che succedono, un po' come fonte di informazione, sia a livello locale che comunque anche a livello nazionale, specialmente per quanto riguarda l'aspetto politico, insomma. Per radio riesco ad ascoltare meno, perché comunque ascolto magari l'Indigesto, che mi piace molto, un po' di rassegna stampa la mattina, che però alterno con quella di Radio Popolare, che mi piace anche quella molto. A volte ascolto notiziaggi popolari sulle vostre frequenze. Diciamo che è un po' un mistoffritto. A me piace la radio parlata, quindi le trasmissioni musicali non le ascolto, perché ascolto la musica che voglio io, quando voglio io. E quindi, insomma, sul social secondo me è molto utile, perché è una sorta di ulteriore fonte di informazione per me affidabile. Cioè, io non guardo quasi telegiornali, io mi informo su Internazionale, su Valigia Blu, guardando la Città Fujiko e poco altro, insomma, ecco. Quindi bene, quindi non ti intossichi con i telegiornali? No, non mi intossico con i telegiornali. L'ho fatto, mi ero data un compito, l'ho fatto per qualche tempo, i primi giorni della guerra, e ascoltavo il telegiornale del direttore numero 2, perché il numero 1 secondo me sei tu, e quindi insomma, così, no, non mi intossico, sì, anche perché io ho degli orari abbastanza anarchici, per cui difficilmente riesco a, sì, mettermi davanti alla TV, insomma. Immagino tu facessi riferimento a Mentana e vorrei avere il suo stipendio, insomma. Ma allora non saresti indipendente. È vero, bisogna essere miserabili per essere indipendenti, Perfetto. Lo stesso posso dire io, sai, guarda, che se avessi lo stipendio di certe altre persone nella mia azienda non sarei indipendente, invece lo sono nel mio piccolo. Certo, quindi insomma tu incarni l'indipendenza anche nella vita quotidiana e quindi sostieni una realtà indipendente. Assolutamente, e quindi spero che a Bologna Bologna lo facciano veramente tutti, perché a una pizza si può rinunciare. Quindi grazie mille Cristina. E, ma figurati, insomma, ci sentiamo. Va bene, ok, ok.